terzo anello ad alta voce, Lolita di Vladimir Nabokov. Eravamo ormai nella terra dell'Artemisia e seguirono un paio di giorni di meraviglioso sollievo. Che stupido ero stato. Andava tutto benissimo. Quel senso di disagio era solo afflato, intrappolato. E dopo un po' le Mesas lasciarono il posto a vere montagne ed entrammo per tempo nella città di Weis. Informandone Lo e con il suo assenso avevo comunicato all'ufficio postale di Birstley il nostro recapito a Weis e a Elphinstone fermo posta. Il mattino dopo dovemmo fare una coda corta ma lenta al primo dei due. La serena Lo studiò la bacheca con le fotografie dei criminali. Non ricordo che lettere ricevetti. Quanto a Dolly, c'era la sua pagella e una busta dall'aria molto speciale. La aprì con decisione e ne lessi il contenuto. Arguì che era tutto previsto, perché Lo parve non badarci e si diresse senza fretta al banco dei giornali vicino all'uscita. Alzai gli occhi dalla lettera e feci per... Nessuna Lo in vista. Mentre ero assorto nella lettera di Mona, Lo aveva fatto spallucce ed era sparita. Ha notato per caso, chiesi a un gobbo che spazzava il pavimento vicino all'ingresso, disse di sì, il vecchio satiro. Gli pareva che Lo avesse visto un'amica e fosse corsa fuori. Corsi fuori a mia volta. Io mi fermai. Lei non lo aveva fatto. Corsi un altro po'. Mi fermai di nuovo. Era successo. Infine, se n'era andata per sempre. Negli anni che seguirono, mi sono domandato spesso perché non se ne fosse andata quel giorno. Saranno stati a trattenerla i nuovi vestiti estivi nella macchina chiusa a chiave? Sarà stato un dettaglio immaturo di chissà quale piano generale? Sarà stato semplicemente perché, tutto considerato, tanto valeva usarmi per farsi portare a Elphinstone il capolinea segreto, in ogni caso? So soltanto che ero sicuro che mi avesse lasciato per sempre. Le evasive montagne color malva che avvolgevano a semicerchio la città mi parevano brulicare di lolite che ansimavano, si inerpicavano, ridevano, ansimavano per poi dissolversi in una leggera foschia. Una grande lettera di pietre bianche su un'erta scarpata nella prospettiva lontana di una via trasversale sembrava l'iniziale del mio dolore. Il bell'ufficio postale nuovo dal quale ero appena emerso si trovava fra un cinema ancora assopito e una cospirazione di pioppi. Ora, le 9 del mattino, fuso orario della regione delle montagne, via la Main Street. Ne percorsi il lato blu, scrutando quello opposto. A tramutarla per incanto in qualcosa di bello era una di quelle fragili, giovani mattine estive. Riflessi di vetri, qua e là, e una generale atmosfera vacillante, quasi di deliquio, alla prospettiva di un mezzogiorno insopportabilmente torrido. Traversai e, bighellonando, diedi una scorsa, per così dire, a tutto un lungo isolato. Farmacia, agenzia immobiliare, mode, ricambi d'auto, caffè, articoli sportivi, agenzia immobiliare, mobili, elettrodomestici, Western Union, tintoria, drogheria. Agente! Agente, mia figlia è scappata! In collusione con un detective, innamorata di un ricattatore! Ha approfittato della mia totale impotenza! Sbirciai dentro tutti i negozi, dibattei dentro di me se fosse il caso di parlare con qualcuno degli scarsi pedoni. Non lo feci. Rimasi seduto per un po' nella macchina ferma, ispezionai i giardinetti sul lato est, tornai a mode e ricambi d'auto. Mi dissi con un empito di furente sarcasmo: «A ricanement? Che ero pazzo a sospettare di lei, che sarebbe tornata da un momento all'altro!» E così fece. Sale in macchina, dissi. Lei obbedì e io continuai a camminare avanti e indietro, lottando con pensieri senza nome e scogitando un modo per affrontare la sua doppiezza. Dopo un po', Lo scese dalla macchina e fu di nuovo al mio fianco. Gradualmente il mio senso dell'udito si sintonizzò di nuovo sulla stazione Lo e mi resi conto che mi stava raccontando di aver incontrato un'amica del passato. Sì? Chi? Una di Bursley. Bene, so tutti i nomi della tua classe. Alice Adams? Non era nella mia classe. Bene, ho qui una lista completa delle studentesse. Il nome, per piacere. Ma non era mica nella mia scuola, era solo una di Bursley. Bene. Ho con me anche l'elenco del telefono di Bursley. Passeremo in rassegna tutti i Brown e gli Smith. So solo il nome. Mary o Jane? No, Dolly, come me. Siamo dunque in un vicolo cieco. Lo specchio contro cui ti rompi il naso. Bene, proviamo in un altro modo. Sei stata via per 28 minuti. Che cosa hanno fatto le due, Dolly? Siamo andate in un drugstore. E avete bevuto? Oh, ma solo due coke. Attenta, Dolly. Possiamo controllare, lo sai. Guarda, Lo, proseguì mentre salivamo in macchina. Ho preso certe precauzioni. Qui, aprendo con delicatezza il cassetto, su questo taccuino ho annotato il numero di targa del nostro amichetto. Davvero imbecille, non l'avevo imparato a memoria. Ciò che ne restava nella mia mente era la lettera iniziale e la cifra finale, come se l'intero anfiteatro di sei segni recedesse concavo dietro un vetro colorato troppo opaco per lasciar decifrare la serie centrale, ma abbastanza trasparente da rivelare le due estremità, una P maiuscola e un 6. Devo addentrarmi in questi particolari, che di per sé possono interessare soltanto uno psicologo di professione, perché altrimenti il lettore, quanto vorrei visualizzarlo come uno studioso dalla barba bionda e le labbra rose che succhia la pomme de sacan mentre beve avidamente il mio manoscritto, potrebbe non capire la qualità del trauma che subì nel notare che la P aveva acquisito la crinolina di una B e che il 6 era stato depennato. Il resto, con cancellature che tradivano il frettoloso su e giù della gomma di una matita e con parti di numeri obliterate o ricostruite da una mano infantile, opponeva un intrico di filo spinato a qualsiasi interpretazione logica. Sapevo soltanto lo stato, uno stato adiacente a quello dove si trovava Bursley. Non dissi nulla. Rimisi a posto il taccuino, chiusi il cassetto e uscì da Waze. Lolita aveva afferrato alcuni fumetti dal sedile di dietro e con la sua blusa bianca, mossa dal vento, un gomito abbronzato fuori dal finestrino, si era immersa nell'avventura di turno di chissà quale becero buffone. A 4 o 5 chilometri da Waze svoltai nell'ombra di un'area per picnic, dove il mattino aveva scaricato i suoi rifiuti di luce su un tavolo vuoto. Lolita alzò lo sguardo con un mezzo sorrisetto di sorpresa e, senza una parola, le mollai un tremendo manrovescio che schioccò sul suo piccolo zigomo ardente e sodo. E poi il rimorso, la cocente dolcezza dell'espiazione singhiozzante, dell'amore che si prosterna, l'inanità della riconciliazione sensuale. Nella notte di velluto, al motel Mirana, baciai le piante giallastre dei suoi piedi dalle dita lunghe, mi immolai. Ma non servì a nulla. Eravamo entrambi condannati e presto sarei entrato in un nuovo ciclo di persecuzione. In the water, wait in the water, wait in the water, in the water, children, wait in the water, wait in the water, you know my heart, trouble, water, wait in the water, wait in the water. In the water, wait in the water, you know my heart, trouble the water. Jordan River, so chilly and cold, you know my heart, trouble the water. And it chilled my body, but it didn't chill my soul, you know my heart, trouble the water. Wait in the water. Wait in the water. Wait in the water. Children, wait in the water. In the water. You know my heart. Trouble the water, you know my God, trouble the water. And they tell me that the sea did give away, you know my God, trouble the water. Per un giorno o due godetti dell'enfasi mentale con cui mi ripetevo che nessuno ci seguiva, che nessuno ci aveva mai seguiti. E poi mi resi tormentosamente conto che Trapp aveva cambiato tattica ed era ancora con noi a bordo di questa o quella macchina a nolo. Vero proteo dell'autostrada. Passava da un veicolo all'altro con una scioltezza sbalorditiva. Quella tecnica sottintendeva l'esistenza di garage specializzati in un rapido cambio di cavalli. Ma non scoprì mai di quale stazione di posta si servisse. Ci trovavamo nella regione delle montagne, fra Snow e Champion, e scendevamo per una china quasi impercettibile, quando vidi di nuovo distintamente il drudo detective Trapp. La nebbia grigia dietro di noi si era addensata, concentrandosi nella compattezza di una berlina azzurro Dominion. Tutto d'un tratto, come se la macchina che guidavo fosse sensibile agli spasimi del mio povero cuore, slittammo di qua e di là, mentre qualcosa sotto di noi emetteva uno sconsolato plap plap plap plap plap plap plap plap. «Hai forato, mister!» disse l'allegra Lo. Accostai accanto a un precipizio. Lei incrociò le braccia e mise un piede sul cruscotto. Io scesi per esaminare la ruota posteriore destra. La base del copertone era umilmente, mostruosamente quadrata. Trapp si era fermato a una cinquantina di metri da noi. La sua faccia lontana formava un'oleosa chiazza di ludibrio. Era la mia occasione. Mi diressi verso di lui con la brillante idea di chiedergli un crick, anche se ce l'avevo già. Lui indietreggiò appena. Inciampai in un sasso e vi fu un senso di generale ilarità. Poi un camion formidabile si profilò dietro Trapp e mi tuonò accanto, e subito dopo sentii il verso convulso del suo clacson. Istintivamente mi voltai e vidi la mia macchina che si allontanava piano piano. Scorsi Lo seduta ridicolmente al volante, e il motore era acceso senza ombra di dubbio, anche se ricordavo di averlo spento, ma senza tirare il freno a mano. E nel breve spazio di tempo pulsante che mi occorse per raggiungere la macchina gracidante, la quale finalmente si fermò, mi venne in mente che in quei 2 anni la piccola Lo aveva avuto tutto il tempo di apprendere i rudimenti della guida. Mentre aprivo con violenza la portiera, ero sicurissimo, maledizione, chi avesse messo in moto per impedirmi di raggiungere Trapp. Il suo stratagemma, comunque, si dimostrò inutile, perché già quando mi ero messo a correre, lui aveva fatto un'energica svolta ad U ed era scomparso. Mi riposai per un po'. Lolita mi chiese se non la ringraziavo. La macchina aveva cominciato a muoversi da sola e, non ricevendo risposta, si immerse nello studio di una cartina. Scesi di nuovo e affrontai il supplizio della ruota, come diceva Charlotte. Forse stavo perdendo il senno. Permettendo a Lolita di studiare recitazione, avevo tollerato, da innamorato inebetito qual ero, che coltivasse l'inganno. Ora mi rendevo conto che non si era trattato soltanto di imparare le risposte a domande come qual è il conflitto fondamentale in Edda Gabler o dove sono i momenti culminanti in Desiderio sotto i tigli, né di analizzare l'atmosfera dominante del Giardino dei Ciliegi. Si era trattato in realtà di imparare a tradirmi. Thank you. gioia pura di Champion, Colorado, su quel campo mirabile, ai piedi di una ripida scalinata di pietra che conduceva al Champion Hotel, dove avevamo passato la notte, Lolita dava colpi forti e piatti con il suo solito movimento ampio e sciolto, rispondendomi con lunghe palle radenti, ma tutto così ritmicamente coordinato e scoperto da ridurre in pratica il mio lavoro di gambe a una passeggiatina cadenzata. I fuoriclasse capiranno cosa intendo. Due persone in calzoncini da tennis, un tizio dai capelli rossi che avrà avuto a stento 8 anni meno di me, coi polpacci di un rosa fiammante bruciati dal sole, e una ragazza bruna e indolente con la bocca imbronciata e gli occhi duri, un paio d'anni più grande di Lolita, sbucarono dal nulla. Dopo essersi seduti con una certa disinvoltura vicino alla mia preziosa giacca su una panchina attigua al campo, si misero a commentare con vociante ammirazione una serie di circa 50 scambi che Lo mi aiutò innocentemente ad alimentare e a sostenere. A quel punto mi era venuta sete e andai alla fontanella. Là il rosso mi avvicinò e in tutta umiltà mi propose un doppio misto. «Mi chiamo Bill Matt», disse, «e lei è Faye Page, attrice, ma fiancée», aggiunse. Stavo per rispondere, mi dispiace, ma perché odio vedere la mia puro sangue coinvolta nei colpetti annaspanti delle schiappe, quando un grido notevolmente melodioso attrasse la mia attenzione. Un fattorino dell'albergo scendeva agilmente i gradini diretto al nostro campo e mi faceva dei cenni. C'era, se non vi dispiace, un'interurbana urgente per me, così urgente che tenevano apposta la linea occupata. Certo, mi misi la giacca, tasca interna appesantita dalla pistola, e dissi a Lo che sarei tornato subito. Dopo che l'ebbi ben pungolato, l'aquilino portiere si prese la briga di accertare se ci fosse stata un'interurbana. Non c'era stata. Non si escludeva uno scherzo da un telefono del posto. Lo ringraziai. Lui disse, ci mancherebbe. Dopo una visita alla gorgogliante toilette degli uomini e un bicchierino al bar, iniziai la marcia di ritorno. Dal primissimo terrazzo vidi, molto più giù, sul campo da tennis che pareva grande come la lavagna mal cancellata di uno scolaretto, l'adorata Lolita, che giocava in doppio. Si muoveva come un angelo leggiadro in mezzo a 3 orribili storpi di Bosch. Uno di questi, il suo partner, nel cambiare le posizioni, le diede una scherzosa pacca sul di dietro con la racchetta. Aveva la testa incredibilmente rotonda e indossava incongrui pantaloni marrone. Vi fu un fermento improvviso. Lui mi vide e, dopo aver gettato la racchetta, la mia, corse in fretta su per la salita. Mentre si arrampicava a gambe larghe fino alla strada, dove lo aspettava la sua macchina grigia, agitava polsi e gomiti nella pretesa parodia di un paio d'ali rudimentali. Un attimo dopo, lui e il grigiore erano scomparsi. Quando arrivai in fondo alle scale, il restante trio stava raccogliendo e separando le palle. «Signor Meade, chi era quella persona?» Bill e Faye scossero il capo con aria molto solenne. «Quello stranissimo intruso si era offerto per un doppio, vero? Dolly? Dolly. Il manico della mia racchetta era ancora disgustosamente caldo. It cost me a lot, but there's one thing that I've got, it's my name. Cold and wet, tired you bet, But all that I soon forget with my man. He's not much for looks and nowhere here or out of books. He's my man. Three girls has he that he likes as well as me, but I love him. I don't know why I should. He isn't good. He isn't true. He beats me too. What can I do? But I don't care when he takes me in his arms. The world is bright. Oh, it's bright. It's bright and it's all right. What's the difference if I say I'll go away? When he takes me in his arms. Oh, the world is bright, bright, bright, bright and all right. What's the difference if I say I'll go away when I know Ennio Fantastichini ha letto Lolita di Vladimir Nabokov, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.